24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il cruciale vertice dell'Eurogruppo che deve decidere sul nuovo pacchetto di aiuti per la Grecia. Vi racconteremo come si vivono queste ore ad Atene e soprattutto vi anticiperemo come un gruppo di paesi europei, tra cui l'Italia, stia puntando a una strategia di rilancio della crescita continentale in vista del vertice europeo di marzo. Vi racconteremo anche delle nuove tensioni tra Europa ed Iran, mentre l'Italia punta a rendere il proprio sistema universitario un polo di attrazione per studenti stranieri dall'Europa e dal mondo. Giorno del giudizio per Atene, che attende con ansia l'esito del vertice dell'Eurogruppo a Bruxelles. I ministri finanziari dell'Eurozona dovrebbero dare luce verde al nuovo pacchetto di aiuti da 130 miliardi di euro. Il titolare delle finanze di Atene, Evangelos Venizelos, si è detto ottimista, affermando che la Grecia è pronta ad attuare tutte le riforme necessarie, a partire dalla ristrutturazione del debito detenuto dai creditori privati. La scena ieri pomeriggio a Bruxelles è stata rubata dai falchi, i paesi rigoristi, che hanno espresso dubbi e accelerato sulle richieste. Il ministro dell'economia olandese Jack de Jager ha chiesto un controllo permanente della Troica in Grecia, insieme a maggiori rassicurazioni sul secondo piano di aiuti. L'Austria si è detta invece scettica sull'idea di creare un conto bloccato sul quale far convergere parte degli aiuti destinati alla Grecia per il rimborso di parte del debito pubblico di Atene. Un'idea, quella del conto bloccato, sostenuta invece dalla Germania. Il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble ha annunciato di puntare a una chiusura del dossier ellenico entro ieri sera. Della situazione greca ha parlato ieri mattina a Milano il premier italiano Mario Monti. Abbiamo cominciato a premere in due direzioni. Una, quella della soluzione del principale, del più pericoloso focolaio, che è quello greco. Quindi, dopo avere saldamente ancorato la penisola italiana alla piattaforma continentale in modo che non si muovesse in direzione di sud-est, abbiamo cercato di aiutare la Grecia a muoversi essa in direzione di nord-ovest e in particolare in quest'ultimo periodo abbiamo corroborato la convinzione di un numero crescente di stati membri dell'Eurozona che sarebbe tuttora grave la possibile perturbazione, benché Italia e Spagna si siano messe su una via retta di politica economica, ove il fronte greco avesse ulteriori serie difficoltà. Ma sentiamo ora come si vivono queste difficili e drammatiche ore ad Atene. Ad Atene oggi inizia in Parlamento l'iter della manovra approvata una settimana fa da 3,3 miliardi di euro, con i dettagli sui tagli da 325 milioni che erano rimasti ancora da definire. Mercoledì la quinta manovra in due anni sarà messa al voto e sicuramente non mancheranno le consuete manifestazioni di protesta in piazza Sintagma. Atene ha anche annunciato che l'8 marzo partirà lo swap sul debito con i creditori privati, da concludersi entro l'11 marzo, 9 giorni prima la scadenza dei titoli per 14,5 miliardi che Atene deve rimborsare, altrimenti sarà default. I greci intanto, secondo un sondaggio dell'Istituto Mark pubblicato dal quotidiano Ethnos, sarebbero favorevoli all'euro per l'80% nonostante le misure di austerità. Quanto ai responsabili della crisi, il sondaggio indica che 4 su 5 sono i governi greci, mentre il 9% punta il dito sui mercati e gli speculatori internazionali. Il 6% invece prende di mira la Troica, composta da UE, FMI e BCE. Per ora intanto occhi puntati su Bruxelles e le decisioni dell'Eurogruppo. Vittorio Darol, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto l'Italia lancia un'altra offensiva su scala europea, questa volta sganciandosi dall'asse franco-tedesco. Insieme ad altri 11 paesi, Roma ha sottoscritto una lettera in vista del prossimo vertice comunitario di marzo, nella quale indica 8 priorità per rilanciare la crescita, oggi al palo. Tra queste, togliere le barriere al mercato dei servizi, creare un mercato unico del digitale e dell'energia entro 2 anni, ridurre il peso della regolamentazione. Tra i firmatari pure Gran Bretagna e Olanda. Dopo rigore, insomma, la crescita è il messaggio a un'Europa in crisi. Le borse europee hanno chiuso ieri in territorio positivo in attesa dell'esito della riunione dell'Eurogruppo, ridotti gli scambi, vista anche la chiusura di Wall Street, Milano ha guadagnato l'1,07%. Giornata di rialzi per le borse europee in attesa dell'esito della riunione dell'Eurogruppo sullo sblocco del nuovo piano di aiuti alla Grecia. Ridotti gli scambi vista anche la chiusura di Wall Street per il presidente Day. Milano ha guadagnato l'1,07% spinta dalle banche con il differenziale tra BTP decennali e Bund tedeschi sceso intorno a quota 350 punti. BPM è salita di oltre l'8% seguita dal Banco Popolare più 5% che in mattinata ha toccato i massimi da fine luglio 2011. Il titolo migliore su FTSE MIB è stato S&P più 8,25%, complice il cambio al vertice della joint venture ST Ericsson alle prese con un piano di risanamento. I rally hanno invece colpito Finmeccanica meno 3,17% dopo il rally della scorsa settimana quando il titolo ha messo a segno un rialzo del 18,6% in due giorni. Ancora in calo Enel meno 0,92% che nelle ultime quattro sedute ha perso oltre l'8%. Le azioni hanno risentito dei report negativi degli analisti che stimano una revisione al ribasso dei target e un taglio del dividendo. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. Grazie. Nuove tensioni tra Iran ed Europa. Teheran ha deciso di sospendere la vendita di petrolio alle compagnie petrolifere francesi e britanniche. Sentiamo Alberto Negri. I messaggi dall'Iran sono in apparenza ambigui e contraddittori. Un giorno manda due navi da guerra in Siria per dimostrare il suo sostegno a Bashar Assad, un altro annuncia di voler riprendere i negoziati sul nucleare e intanto taglia il petrolio a Londra e Parigi. Anche la rappresaglia per le sanzioni è scattata con i metodi classici della diplomazia di Teheran, attenta a classificare i paesi più ostili, come Gran Bretagna e Francia, da quelli come l'Italia, la Spagna e la Grecia, che non sono considerati dei nemici. Ecco perché l'Italia, come altri paesi, sarà colpita soltanto successivamente, nonostante la nostra diplomazia sostenga strenuamente un embargo che costa alcuni miliardi di dollari in mancate esportazioni e commesse. Questo è comunque soltanto un passaggio di una crisi aperta a una soluzione. L'Iran vuole riprendere i negoziati sul nucleare, Israele insiste che le sanzioni non bastano. Gli Stati Uniti per ora non vogliono una guerra, ma nello stretto di Hormuz e sui mercati la tensione è destinata a salire, la più facile delle previsioni è che forse pagheremo ancora di più la benzina. E parliamo ora di università. C'è un piano del ministro all'istruzione Profumo per rendere le università italiane più attrattive per gli studenti stranieri. Sentiamo. Un progetto paese che coinvolge molti attori dall'università all'impresa e si attua su piani diversi. È il progetto di apertura degli Atenei italiani agli studenti stranieri lanciato in questi giorni dal ministro dell'università Francesco Profumo. Un piano che prevede test di valutazione internazionali, un impulso crescente ai corsi in lingua inglese, un portale unico sul web per la comunicazione dell'offerta formativa e lo snellimento delle pratiche burocratiche. Il tutto con un duplice obiettivo: aumentare in misura sensibile il numero degli studenti stranieri, soprattutto per le tappe più alte della formazione, cioè lauree magistrali e dottorati, e cambiare la geografia della provenienza, puntando sui paesi guida dell'economia, oggi poco rappresentati negli Atenei italiani. Il target punta su Stati Uniti, Gran Bretagna, Brasile, Russia, India e Cina. Gianni Trovati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso di cinema. Cesare deve morire è la rivisitazione del Giulio Cesare di Shakespeare dei fratelli Taviani. Il film ha trionfato sabato a Berlino vincendo l'Orso d'Oro. Gli attori sono tutti detenuti del carcere romano di Rebibbia e fanno teatro da oltre 10 anni sotto il coordinamento del regista Fabio Cavalli. Sasà Striano ha passato ben 8 anni in cella Rebibbia per detenzione di armi, estorsione e associazione a delinquere. Nel film impersona Bruto. Sentiamo come racconta la sua esperienza Paolo Panceri. Questa esperienza in carcere mi ha segnato particolarmente per il fatto che io lì dentro ci sono stato rinchiuso per anni e quindi era un ritorno, quindi ho dovuto un attimino prima addominare tutte queste emozioni tra gratificazioni di entrare dalla porta grande, tra il fatto di far vedere ai miei compagni che comunque io fuori ce la stavo facendo e quindi entravo lì dentro come una luce di speranza per loro a dire ma allora questa roba funziona. Dopo la prima settimana che sono riuscito a fare tutto questo passaggio, anche perché avevo di fronte due maestri come Paolo e Vittorio, ho iniziato a pensare al mio Bruto e al mio personaggio. Non è stato per niente facile. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.